Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi incontriamo un gruppo di sorelle, tre sorelle francesi, le sorelle ribelli, o ribelli, o ribelli. Ribelli in realtà non è l'aggettivo, è il nome, e quindi potremmo chiamarle ribelli essendo francesi, ma essendo la famiglia di origine italiana possiamo anche chiamarle ribelli. Insomma, chiamatele come volete, questo è il titolo del libro di Corinne Atlat, che è pubblicato da Edizioni E/O, 348 pagine, 18,50 €, tradotto da Federica Alba. Vi dicevo di tre sorelle che vengono dalla provincia francese, dalla Provenza. Negli anni 60 sbarcano a Parigi, alcune hanno grandi ambizioni, la prima per esempio che si vuole emancipare dal piccolo ambiente provinciale, la seconda cerca in realtà molto tradizionalmente di sistemarsi con un bel matrimonio e la terza vuole diventare scrittrice. I loro sogni avranno sviluppi inediti, diversi naturalmente, e la loro storia diventa lo specchio di una generazione, delle sue illusioni, delle sue delusioni e anche di qualche tradimento ai propri ideali. È un romanzo interessante, intelligente, scritto con ironia e partecipazione, che fotografa bene l'evoluzione o l'involuzione, secondo i punti di vista, della generazione dei baby boomers di cui ci parla adesso l'autrice. Buongiorno a Corinne Atlat. Buongiorno. Il suo libro è più un documento sull'evoluzione recente della Francia o una storia di un'intera generazione? Penso che si tratti di una generazione europea e occidentale che ha vissuto un periodo, dagli anni 70 fino al 2000, di avvenimenti che hanno trasformato e rivoluzionato la vita delle donne e che hanno avuto una parte importante in questa metamorfosi e in questa rivoluzione del loro ruolo sociale. Penso che questo fenomeno abbia attraversato tutti i paesi europei e occidentali. Dal suo libro ci accorgiamo che anche in Francia molti ardori rivoluzionari si sono trasformati in ricerca del potere. Assolutamente. È vero, io conosco un po' l'Italia e un po' la Spagna e penso di poter dire che tutte queste generazioni hanno vissuto la stessa evoluzione nel corso degli anni. Quelli che hanno fatto la rivoluzione erano dei ragazzi borghesi e in seguito hanno ritrovato la loro condizione borghese e sono diventati dei dirigenti o degli intellettuali di fama o degli artisti, ma non sono stati certo i proletari a fare questa rivoluzione. Ce n'était pas prolétaires vraiment qui ont fait ce bouleversement. Du point de vue du féminisme, ça a pas été une trahison. Dal punto di vista del femminismo non è stato un tradimento. Sfortunatamente oggi assistiamo ad una regressione piuttosto significativa e questo rappresenta un po' un problema. Speriamo che si continui a lottare e che le nuove generazioni ricomincino a lottare. Penso comunque che di fatto si possa parlare di un'evoluzione. È diverso avere 20 anni e averne 60. Non si hanno gli stessi desideri. E poi ci sono le famiglie, come avviene per le tre sorelle. Ognuna di loro si evolve e quando ci sono di mezzo i figli, quando si ha qualcosa da perdere, è diverso da quando non si ha niente da perdere. E Brigitte infatti rivendica di essere stata la sola delle sorelle ribelli a essere riuscita a emanciparsi dal gioco degli uomini. Quello che è interessante è che Brigitte sembra un po' diversa dalle altre, perché sogna di sposarsi e di avere dei figli e pensa che le teorie femministe non siano realizzabili e la cosa non le interessa. Ma il corso della vita la porterà ad essere tradita dal marito e ad andarsene assieme alle figlie. Le succede quello che non avrebbe mai voluto, ovvero divorziare e dover prendere il controllo della propria vita e di quella delle figlie. Si rende conto quindi di essere una donna molto più indipendente di quello che pensava. Alla fine, dunque, è lei la più forte, almeno così sembra, perlomeno dal punto di vista del successo professionale e finanziario. Le altre, invece, cercano di realizzare i propri sogni con quello che hanno, fanno tutto il possibile, e se non ci riescono, si accontentano almeno di essere riuscite a realizzarne qualcuno. Lei dice di essere la più indipendente, ma si tratta di qualcosa di cui si discute spesso tra sorelle. Quella generazione fu anche la generazione che scoprì, per esempio, la società dello spettacolo, magari leggendo, come dice lei, Debord. Ça signifie que c'est une génération qui est née dans l'après-guerre. Significa che si tratta di una generazione che è nata nel dopoguerra, quindi in quella famosa epoca in cui tutti quelli che prima avevano dei problemi finanziari o dei disagi economici, da un momento all'altro hanno potuto ottenere cose alle quali prima non avevano accesso. Di punto in bianco sono arrivati i frigoriferi, automobili e televisori per tutti, lavatrici. Quindi certamente è arrivato il progresso, ma è arrivato anche il consumo sfrenato, come quello che si avrà poi negli anni 70. Penso che se all'epoca abbiamo tanto amato Guy Debord, era perché c'era già tutto quello che sarebbe arrivato dopo. Da una parte si era contenti del progresso, ma allo stesso tempo ci si domandava che senso avesse consumare così tanto e spendere dei soldi, quando invece sarebbe stato meglio avere degli ideali, avere una morale forte, anziché limitarsi solo a consumare. Ho l'impressione che la nuova generazione, che oggi ha tra i 20 e i 30 anni, stia ripartendo proprio da quello spirito e trovo che questo sia positivo. Elle repart un peu dans cet esprit-là, ce qui est très agréable. E c'è un ritorno agli ideali, secondo lei, nelle giovani generazioni? Sì, penso che ci sia un ritorno al collettivo e che non si abbia più voglia di stare da soli. Penso a tutti quei casi di persone che vivono in coabitazione, indubbiamente per ragioni finanziarie, ma è anche vero che si preferisce essere in tanti a lottare nella vita, piuttosto che essere da soli. E poi ci sono molti collettivi di artisti che trovo davvero interessanti. Ci sono giovani artisti che vivono in quelli che si chiamano squats, che sono dei luoghi che condividono. Un po' come facevamo noi. Anch'io ho iniziato a fare teatro a 18 anni in un collettivo e credo che i giovani non siano molto lontani da noi in questo momento. Si può dire che le sorelle del suo libro siano quattro, essendo la quarta la città di Parigi? Certo, loro viaggiano anche in Italia, ma è Parigi la città che li attira, come per tutti i provinciali. Non so se sia così anche in Italia, se sia Roma o Milano, ma in Francia è Parigi che attira i provinciali e che li affascina. È a Parigi dove succede tutto, mentre in provincia è tutto più complicato, per il lavoro o per quello che ad esempio vuole fare Jean, cioè scrivere dei libri. Poi però capita che ci siano quelli come Brigitte, che apre il suo negozio di parrucchiera e alla fine ritorna nella sua città di origine. Che cosa possono trovare in particolare nel suo libro i lettori italiani? Beh, nel libro si può trovare Roma e poi c'è il padre delle ragazze che viene dal Piemonte. Ci sono le origini della famiglia che sono un po' italiane e un po' provenzali. Penso che questo sia importante perché riguarda tutto il sud della Francia. È vero che la Francia si trova tra il sud Europa e i paesi anglosassoni, però io mi sento molto mediterranea e molto latina. L'italiano è una lingua che amo e l'Italia è un paese dove passo molto tempo. Quindi penso che tutto questo amore per l'Italia sia presente nel libro e nella vita delle sorelle, perché il loro padre è italiano e perché una di loro si innamora di un italiano e ha un figlio da un italiano. Un mito letterario per quella generazione, non solo per quella francese, fu François Sagan, di cui le edizioni Clichy propongono adesso una raccolta di racconti inediti sotto il titolo Musiche di scena, 202 pagine, 16 euro, tradotto da Laura Mammarella. Troviamo qua 17 racconti, la gran parte pubblicati nell'81 e altri apparsi su alcune riviste della scrittrice che era divenuta celeberrima in tutto il mondo per il romanzo Bonjour Tristesse del 54, pubblicato quando l'autrice aveva appena 19 anni. La Sagan sarebbe poi morta nel 2004. Sono racconti che vale la pena di riproporre, alcuni ci portano a Parigi, alcuni hanno un'ambientazione storica, uno anche a Napoli, sempre con felici spunti narrativi, leggerezza di stile, come mostrato in queste righe che ci introducono in una Parigi di agosto dove si manifesta una fulminea passione amorosa. Le formiche meccaniche, le formiche a benzina che per 11 mesi stringevano ogni marciapiede e ogni lungo fiume della città in una morsa. Le formiche automobili erano partite con il loro conducente e la loro famiglia verso mari o verso prati di un verde molto intenso. I viali, i cieli, gli spazi aperti di Parigi, non più incastrati fra i cofani e i bagagliai di due automobili vicine, si offrivano allo sguardo in modo diverso. Parigi era bella e a forza di strascicare i piedi sui marciapiedi bollenti e di esitare fra due caffè all'aperto, Rémy Pelletier avrebbe potuto chiedere di essere ritornato agli anni della sua adolescenza, da studente. Ma 15 anni di lavoro e di grattacapi, più 10 di matrimonio, avevano trasformato quell'adolescenza in una definizione da dizionario, in una di quelle descrizioni piatte, sterili e stilizzate della gioventù che dilagano sui giornali. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Ha un'aria un po' vintage anche questo libro che adesso vi propongo. È l'ultimo libro di Enrico Brizzi, L'arte di stare al mondo. È pubblicato da Mondadori, 232 pagine, 14,90 euro. Lo scrittore bolognese ci porta nella sua città negli anni 70 e legge questa città soprattutto attraverso la cultura della cucina e della gastronomia, che a Bologna vuol dire tanto, anche per definire l'identità collettiva, come dicono queste righe che adesso vi propongo di Brizzi. Bastava voltare pagina dell'Atlante per rendersi conto che l'Italia era molto più grande di così e abitata dalle genti più diverse. Su ognuna di quelle comunità, benché non ne conoscessi alcun esponente, mi ero fatto un'idea. A meridione, oltre le rampe d'Appennino sulle quali erano vissuti i miei avi mangiatori di castagne, viveva il popolo dei toscani. Li si riteneva supponenti e cucinavano zuppe spaventose, ma erano anche loro compagni del PCI, quindi bisognava andarci d'accordo. A nord, invece, oltre la Bassa e il letto del Po, erano stanziate le moltitudini dei Lombardi. Avevano un dialetto cugino dell'emiliano, ma i provinciali erano mangiatori di verze e formaggi puzzolenti, mentre i milanesi di città si diceva che non mangiassero punto, nutrendosi solo di aperitivi moderatamente alcolici. Come i loro vicini piemontesi, poi, sembrava che i Lombardi preferissero il riso e la polenta alla pasta all'uovo, biondo fondamento della civiltà emiliana. Quanto agli abitanti del Veneto, che avevano casa oltre le inospitali terre del Delta, li si guardava come i più stravaganti di tutti, in quanto mangiatori di radicchio e baccalà, bevitori smodati e, almeno nel caso dei vicentini, divoratori di gatti. E per non sbagliare, Brizzi al termine del suo libro ci dà anche una bella lista di ricette, espressione di quella civiltà. Una insolita riflessione sulla cucina è il libro di uno scienziato e tecnologo, Massimiano Bucchi. Si intitola Il pollo di Newton, un menù che solletica il palato, il gusto per la scienza e il piacere della lettura. È pubblicato da Guanda, 186 pagine, 16,50 euro. I capitoli sono ripartiti come un menù, per cui si parte dall'antipasto, la cucina come scienza, la scienza come cucina, da Socrate la fusione fredda, poi abbiamo il secondo, la scienza del pollo, bevande a parte, dove si parla di birra, vino, caffè, tè e cioccolata, dessert seguito dal digestivo e poi i riferimenti bibliografici con l'indice degli ingredienti che sostituisce nel nome l'indice appunto dei nomi. Tema del libro è il rapporto tra scienza e cucina, che diventa la metafora del rapporto tra scienza e società. Si parla di tante esperienze ed episodi, come il famoso pollo che fece morire di freddo il famoso filosofo Bacone, che voleva dimostrare le proprietà della neve per mantenere i viveri. E poi ci sono molti riferimenti da Socrate al futurismo che rendono il libro divertente oltre che istruttivo. Tra l'altro, a un certo punto si insiste sul nesso, che è diventato una sorta di alibi per spingere o giustificare l'interesse delle donne verso la scienza. Infatti scrive l'autore che le scienze domestiche diventarono una sorta di area di addomesticazione dell'emergente domanda di coinvolgimento nella scienza da parte di pubblici femminili. E saranno spesso proprio le donne a segnare il successo dei prodotti frutto dell'innovazione scientifica e tecnologica messi al servizio della cucina, per esempio l'estratto di carne Liebig. Una lunga tappa dell'ideale viaggio in Italia che stiamo facendo in queste settimane è il grande fiume, il Po, che troviamo nel libro di Paolo Rumiz, giornalista di Repubblica. Morimondo, è pubblicato da Feltrinelli, 320 pagine, 18 euro. Questa è la cronaca di un viaggio lungo il Po durato un mese, un'impresa apparentemente banale ma del tutto insolita, come spiega l'autore in queste righe. Il fiume è la cosa più libera che ci sia. Forse per questo gli italiani, dopo secoli di baciamano e genuflessioni ai potenti, lo evitano. E per questo la politica lo ignora. Eserciti di mamme tengono i loro figli lontano dall'acqua che va. A Motta Baluffi, a uno sputo dall'argine, ho incontrato gente che non aveva visto Po se non dai ponti dell'autostrada. Per questo abbiamo viaggiato così, da soli, nel grande dimenticato. Soli tra canneti e pesci siluro, ombre di argonauti e cercatori d'oro, fisarmoniche e casette rivierasche simil-sovietiche. È un fatto che quasi nessuno fa il po' via acqua. Il passaggio di qualche matto che lo scende e lo risale viene ricordato per anni, tanto è raro. Ma ancor più rara è un'esplorazione che tenti di mappare l'universo padano. A tutt'oggi non esiste una carta che lo rappresenti nella sua interezza, con ponti, locande, musei, isole, strade, affluenti, dighe, insidie e accessi da terraferma. Certo, c'è la carta degli attracchi, quella delle piste ciclabili o quella dei ristoranti rivieraschi, ma non c'è ancora il quadro d'insieme che dica agli italiani che cosa si perdono. Questo è stato forse il primo tentativo di averne uno. Arcipelago di memorie divise, Po ha ancora bisogno di un grande regista che lo racconti unitariamente, qualcuno che faccia un censimento sistematico dei testimoni di un mondo che scompare. Si parte naturalmente dall'origine del fiume sotto il Monviso, dal ponte di Staffarda, e da qui si dipana un'avventura che riempie la vita di Rumiz e dei suoi compagni di viaggio. Seguiremo l'itinerario sulle mappe, scopriremo anche gli ignoti e paesaggi straordinari, un'Italia di cui si sa sicuramente poco. Scopriamo addirittura l'esistenza di bande di pirati che spadroneggiano per imprese, spesso dal contenuto criminale molto limitato, e molte altre personaggi come il bardo Francesco Guccini, di cui Rumiz dice che pochi sanno che è un uomo d'acqua che va segretamente in canoa a pagaiare e si definisce uomo di fiume. Una meta tradizionale di questo viaggio in Italia naturalmente è Roma, di cui non si cessano di scoprire nuovi segreti, e allora vi segnalo il libro di Lauretta Colonnelli, Conosco Roma, 450 domande e 450 risposte sulla capitale, pubblicato da Edizioni Clichy, 274 pagine, 15 euro. In queste domande e risposte scopriremo molti particolari inediti della città, per esempio la spiegazione di un detto famoso di Roma che ormai è diventato patrimonio comune: non c'è trippa per gatti. E offriamo questa spiegazione anche come auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Roma, Marino. La frase nasce da un provvedimento preso da Ernesto Nathan, sindaco progressista che nel novembre 1907, appena eletto, decise di mettere ordine nella vita cittadina. Esaminando il bilancio comunale, si accorse che esisteva la voce frattaglie per gatti, spesa destinata al mantenimento dei felini che avrebbero dovuto difendere dai topi i documenti custoditi negli archivi capitolini. Nathan la cancellò con un tratto di penna, spiegando ai funzionari che d'ora in poi i gatti avrebbero dovuto sfamarsi con i topi. Se non li avessero trovati, la loro presenza sarebbe risultata inutile. E a questo punto... Il confettino. Un libro che evoca i viaggi è Il mondo è tuo di Riccardo Bozzi, illustrato da Olimpia Zagnoli, per Terre di Mezzo, 14 euro. Questo è un invito a muoversi nel mondo con libertà e rispetto per gli altri, destinato ai lettori più piccoli. E con questo ringrazio Guido Scotti redazione e Fabio Cantadori regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, buon Ferragosto, e vi do appuntamento alla settimana prossima.